Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oggi è un sabato in cui commentiamo buone notizie. Sembra infatti che la dinamica di medio periodo sulle imprese sia positiva. Sono usciti i dati dell'UCIMU sull'andamento della vendita di macchine e utensili nel primo trimestre del 2017, abbiamo più 22,2%, non più 22,2% delle vendite, ma del loro indice, e più 5,1% degli ordini. Insomma, in un paese in cui le macchine sono vecchie, l'età media è di 13 anni, finalmente si è ripreso a comprare macchine nuove. Questo in parte è un effetto del famoso pacchetto Calenda, ma vuole anche dire che la congiuntura, per quanto riguarda le imprese, volge decisamente al meglio. No, decisamente forse è sbagliato. Volge progressivamente e lentamente al meglio, però volge al meglio. Oltretutto aumentano anche le esportazioni e aumenta anche la fiducia delle imprese. Che cosa vuol dire tutto questo per l'industria italiana? Lo commentiamo oggi con il professor Marco Taisz del Politecnico di Milano. Buongiorno. Buongiorno. E poi insieme a lui cercheremo di capire oggi e anche nella puntata di domani se esiste una via italiana all'industria 4.0, che cosa devono fare le imprese italiane per trasformare l'industria 4.0 in un veicolo per guadagnare veramente più soldi, perché noi ne parliamo tantissimo di industria 4.0 e il dibattito finalmente si è aperto e si parla di manifattura. Finalmente la manifattura è uscita da quel cono d'ombra che l'ha avvolta per 20 anni. Poi però nella realtà, tranne questi primi timidi indicatori che non è detto che siano ascrivibili all'industria 4.0, gli effetti dell'industria 4.0 sulla produttività ancora non si vedono, e non si vedono nemmeno nelle piccole imprese. Ma torniamo all'argomento iniziale. Allora, Taisz, che cosa vuol dire sono aumentate così tanto le vendite di macchine e utensili in Italia? Beh, vuol dire che evidentemente le imprese e gli imprenditori tornano a investire, che era un po' il problema che avevamo registrato negli ultimi anni, quando gli investimenti in Italia sono scesi sotto il livello precedente alla crisi del 2008. La Francia è tornata sugli stessi livelli, la Germania ha superato quei livelli pre-crisi. Il fatto che la produttività in Italia stia continuando a scendere è perché non abbiamo investito, e quindi il fatto che si torni a investire evidentemente è un ottimo segnale nel breve periodo, perché questo vuol dire un impatto immediato sul PIL del paese, e di questo sappiamo che ne abbiamo bisogno, ma vuol dire anche e soprattutto nel medio-lungo periodo favorire e costruire le basi per la crescita del paese. Ecco, quindi lei si aspetta che questa tendenza agli ordinativi di macchine e utensili sia confermata nei trimestri successivi? Io mi aspetto non solo che sia confermata, ma che sia anche superiore a quella che abbiamo registrato nel primo trimestre. Tenete conto che il piano Calenda è entrato in funzione solo il primo di gennaio, e quindi è chiaro che c'è bisogno, diciamo, da parte del mondo dell'industria di prendere consapevolezza, di capire e poi di prendere quelle decisioni che evidentemente sono necessarie. Abbiamo ancora davanti tutto l'anno, questi dati che abbiamo letto si riferiscono solo al primo trimestre, ci sono altri 3 trimestri davanti che sicuramente mi aspetto saranno migliori di quello che abbiamo registrato nel primo trimestre. Ma come mai, secondo lei, le macchine e i robot che ci sono nelle imprese italiane sono così vecchi? L'UCIMU diceva 13 anni di età media. Praticamente abbiamo molte aziende che hanno dentro dei macinini? Un pochino, sì, direi di sì. Chiamiamo macinini, è una bellissima definizione. Forse c'è un misto tra mancanza di imprenditorialità, forse c'era un misto di sfiducia, e quindi questo evidentemente ha fatto sì che i nostri imprenditori non avessero voglia di investire. Questo evidentemente poi vuol dire nel medio-lungo periodo andare a perdere di competitività, andare a perdere di produttività. Bisogna anche recuperare fiducia. Da un lato, io credo che l'industria 4.0 sia un'ottima occasione per tornare a investire, sia un'ottima occasione per tornare a parlare di manifatturiero, in qualche modo c'è uno shock culturale che 4.0 si porta dietro e che potrebbe essere la chiave di volta per convincere il nostro imprenditore a tornare a mettere i soldi laddove la crescita del paese si deve fondare. Comunque non dobbiamo perdere di vista questi dati che sono positivi. Ecco una scheda. Aumentano le vendite di macchine, utensili e robot, cresce la fiducia delle imprese, sale l'export. Sono queste le buone notizie sul mondo industriale italiano che sono uscite a fine aprile, con dati che ovviamente sono riferiti a fine marzo. Il più importante riguarda robot e macchine e utensili. UCIMU, l'associazione di settore, ogni trimestre elabora l'indice delle commesse interne. Ebbene, per il primo trimestre 2017 l'indice si è posizionato a quota 236, con un incremento del 22,2% rispetto al trimestre precedente. Si tratta del valore più alto dal 2010 ad oggi, pari al triplo di quello del 2013. Comunque, nel 2016, le commesse interne di robot e macchine e utensili sono cresciute del 32%. Più contenuto l'incremento generale degli ordini, che nel primo trimestre 2017 è salito del 5,1%. La differenza fra commesse interne e ordini nella loro totalità si spiega con l'export, che purtroppo è in leggero calo. Comunque, l'aumento delle commesse interne interessa non tanto per lo stato di salute del settore utensili e automazione, ma soprattutto perché indica la tendenza generale di tutta l'industria, che è ora marcatamente orientata verso una ripresa degli investimenti. Non a caso, nel mese di aprile, l'indice Istat sulla fiducia delle imprese ha ripreso a crescere, posizionandosi a quota 107,4 punti, in netto incremento rispetto ai 105,1 punti di marzo e ai 100,8 punti di dicembre 2016. Coerente con tutto ciò è anche la crescita delle esportazioni extra UE, che secondo l'Istat nello scorso marzo è aumentata del 15,4%, il quinto dato positivo consecutivo e il secondo a due cifre, dopo lo scorso gennaio. Merito soprattutto della Cina, che ha incrementato le commesse del Made in Italy del 22,2%, della Russia con un 21% e dell'India con un più 12%. La dinamica di medio periodo delle imprese, insomma, sembra essere davvero positiva. Non così è per le famiglie. L'indice Istat della fiducia dei consumatori ad aprile si è posizionato a quota 107,5 punti, stabile rispetto ai 107,6 punti di marzo e addirittura in discesa rispetto ai 110,5 punti di dicembre 2016. In generale, la lontananza dai livelli pre-crisi è ancora notevole. Rieccoci in linea dopo la scheda su questi dati positivi, dati che insomma ci lasciano sperare bene. Ecco, ma in Germania l'Industry 4.0, ricordiamo che in Germania è stata inventata questa sigla, l'Industry 4.0 è un fenomeno che riguarda le grandi imprese che si sono sedute al tavolo col governo e hanno creato e hanno codificato l'Industry 4.0 nell'ambito di un atto di politica economica, anzi di politica industriale. In Italia non c'è una politica industriale scritta a tavolino e soprattutto non ci sono grandi imprese, abbiamo piccole e medie imprese. Inoltre, in Germania abbiamo la preponderanza di automotive e aerospazio, in Italia abbiamo settori diversificati. Ma comunque la domanda è, professor Teich, ma visto che ancora non si sono visti in pratica gli effetti dell'Industry 4.0 su produttività e volumi, secondo lei esiste una via italiana all'Industry 4.0? La via italiana c'è, che è quella che tutti insieme stiamo costruendo in questo periodo. Noi appunto dobbiamo pensare che dobbiamo andare al di là del concetto di industria 4.0. Se io penso a industria 4.0 penso a una cosa che è in qualche modo limitata alla fabbrica. Io credo che questo in Italia non sia sufficiente. Noi dobbiamo pensare a imprese 4.0, dobbiamo pensare a prodotti 4.0, dobbiamo pensare a supply chain, a filiere 4.0. Che cosa vuol dire? Vuol dire che per esempio dobbiamo lavorare moltissimo sulla capacità di innovare i nostri prodotti, rendendoli più intelligenti, rendendoli connessi, rendendoli smart. Questo è sicuramente un elemento di competitività. Dobbiamo pensare che in una filiera fatta di grandi imprese e di piccole imprese non è sufficiente andare a ottimizzare la singola fabbrica, noi dobbiamo ottimizzare l'intera filiera, quindi sicuramente lavorare sulle fabbriche, ma connettere le fabbriche tra di loro, connettere la filiera tra di loro, all'interno dei vari punti di questa filiera. E infine dobbiamo poi lavorare su un altro grande asset che l'Italia ha, e che è l'asset delle persone, delle competenze. Non dimentichiamoci che io sono assolutamente convinto che i robot non sostituiranno completamente l'uomo. L'automazione industriale, la robotica, sta evolvendo verso una robotica di tipo collaborativo, quindi l'interazione uomo-macchina, una robotica, un'automazione di tipo cognitivo, cioè molto più basata sul dato, e questo vuol dire avere nuove competenze, nuove persone che sappiano usare questi dati, interpretare questi dati. Ecco, su questi tre aspetti noi dobbiamo in qualche modo individuare la via italiana all'industria 4.0. Quindi la via italiana all'industria 4.0 potrebbe essere imprese 4.0, prodotti 4.0, competenze 4.0 e poi che altro? Beh, direi che questi sono i tre aspetti fondamentali. Dimentichiamoci il termine industria 4.0, andiamo al di là di questo termine e decliniamolo in tutte le dimensioni. Fare impresa vuol dire avere imprenditorialità 4.0, vuol dire... Ecco, nella seconda parte della trasmissione, poi ci collegheremo anche con un ospite speciale, vedremo meglio che cosa si tratta e che cosa vuol dire impresa 4.0, perché a un certo punto questi slogan, a furia di ripeterli, potrebbero sembrare vuoti, annoiare, ma non lo sono, sono il nostro futuro. Restate con noi. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia, i gialli della storia. Poi i libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea. In questa trasmissione speciale abbiamo prima elencato alcuni dati positivi che sembrano far pensare che il clima in Italia per quanto riguarda l'industria indichi una ripresa di fiducia e si volga al bello. Poi ci siamo chiesti col professor Taish, che è il nostro ospite di oggi, se esiste una via italiana all'industria 4.0. E lui diceva che bisogna essenzialmente parlare di imprese 4.0, però io non ho capito tanto che cosa vuol dire imprese 4.0. Lei che mi dice, Taish? Vuol dire che le imprese sono fatte sicuramente di fabbriche, ma questo va bene, su quelle dobbiamo lavorare per aumentare la produttività, ma le imprese sono fatte anche di nuovi prodotti e quindi dobbiamo pensare a riprogettare i nostri prodotti in una maniera nuova. E le fabbriche e le imprese sono fatte anche di modelli di business, pensiamo a tutto il tema della servitizzazione, no? Quindi di vendere prodotti e servizi annessi a questi prodotti. Questo vuol dire avere una nuova value proposition, un nuovo modello di business che è abilitato dalle stesse tecnologie che rientrano e che fanno parte del paradigma del 4.0. Quindi l'industria 4.0 non è solo una questione che riguarda la fabbrica e i direttori di stabilimento. L'industria 4.0 è questo utilizzo pervasivo di queste tecnologie su tutti sui processi decisionali dell'impresa, sui processi di progettazione dei prodotti, sui processi di vendita di questi prodotti e di interazione con il nostro cliente. Allora, se pensiamo in grande, quindi andiamo al di là del paradigma prettamente tedesco che vuole ottimizzare la fabbrica, pensiamo in grande, usciamo dalla fabbrica, usciamo anche dall'impresa, quindi colleghiamo le imprese tra di loro, colleghiamo i consumatori con le imprese, i consumatori con i consumatori con i prodotti, ecco allora che forse noi italiani saremo in grado di sfruttare meglio questo paradigma. Ecco, io volevo chiedere ai nostri ascoltatori, ma voi che cosa pensate dell'Industria 4.0? È uno slogan? È una cosa che può cambiare le vostre vite? È la solita trovata dei politici per dare degli sgravi alle imprese e quindi aiutare sempre i soliti noti? Può far crescere l'occupazione? Può farla diminuire? Scriveteci come al solito a fabbrica@radio24.it. Raccoglieremo le vostre opinioni, raccoglieremo cosa pensate e alcune mail saranno lette nelle prossime trasmissioni, esattamente come abbiamo fatto quando abbiamo aperto il dibattito sui robot. Allora, ci colleghiamo per un attimo con l'ingegner Fabio Moioli, che è appena entrato in Microsoft come direttore di divisione per occuparsi della manifattura e della consulenza. Ecco, ma secondo lei esiste una via italiana? Come devono fare le imprese italiane che sono magari di più piccola dimensione a trasformare l'Industria 4.0 in una fonte di ricavi? Guardi, assolutamente ritengo che l'Industria 4.0 rappresenti una grandissima opportunità per il mercato italiano. Io sono in Microsoft ormai da quasi un anno, circa un anno, e ho già visto molte realtà italiane trasformarsi. È chiaro che per farlo serve saper massimizzare i benefici delle nuove tecnologie cloud e mettere al servizio di fatto della nostra creatività del Made in Italy. Infatti se uno guarda un po' il passato, è vero che forse abbiamo come Italia perso un po' di competitività rispetto ad alcune altre realtà estere, mi riferisco ad esempio agli Stati Uniti, alcuni paesi dell'Asia, o alla nostra vicina Germania, che si parla spesso, l'Industria 4.0 tedesca. Ecco, è vero che abbiamo perso competitività, ma... ma oggi secondo me siamo però a un punto di svolta in cui il cloud ci può permettere veramente di recuperare tutto il terreno perso e anzi di prendere il vantaggio in alcuni ambiti. Con il cloud infatti siamo una vera e propria rivoluzione, perché tramite il cloud qualsiasi azienda connessa a internet accede immediatamente alla stessa tecnologia cloud utilizzata dalle più grandi multinazionali. Per fare un esempio... Quindi no, mi scusi, lei vuol dire, io l'ho chiesto, c'è una via italiana all'Industria 4.0 visto che le imprese di piccola dimensione sono diverse da quelle che ci sono in altri paesi. Lei dice le imprese di piccola dimensione possono competere perché usando il cloud hanno le stesse tecnologie e gli stessi strumenti delle grandi. Corretto, questo qua è veramente una svolta epocale, perché se uno immagina qualche anno fa ovviamente per fare un progetto innovativo, magari addirittura che andasse verso un'intelligenza artificiale, ma anche solo che elaborasse i dati in modo importante, serviva a fare grandi progetti da milioni e milioni di euro che ovviamente solo le multinazionali, le grandi aziende tedesche di determinati settori potevano permettersi. Oggi con il cloud la piccola azienda o la media azienda, la Salvagnino, la Fameccanica, possono fare le stesse cose. Ecco, mi scusi, ma il tempo è tiranno, io le volevo fare altre due domande. Voi a Pordenone avete fatto sulla Lean Production un importante investimento insieme a Confindustria Pordenone e a McKinsey. Ci vuole spiegare in due minuti di che cosa si tratta? Ma sì, McKinsey assieme a un'industria Pordenone ha aperto nel 2011 questo centro vicino Pordenone sulla Lean Manufacturing, quindi utilizzare la metodologia Lean sviluppata in Toyota per aumentare la produttività delle fabbriche, si parla anche di raddoppiare la produttività. Oggi questa realtà è diventata Factory 4.0 in quanto sta inglobando anche tutta una serie di soluzioni tecnologiche messe a disposizione da Microsoft che permettono di fatto di vedere sul campo come è possibile veramente in modo molto semplice ottenere dei benefici enormi a livello di factory di industria o di azienda in generale 4.0, ad esempio per fare solo un caso concreto, con un normale portatile, un Surface piuttosto che un telefonino, è possibile che il macchinario riconosca la persona, l'operatore, che si mette di fronte e quindi comportarsi in modo diverso rispetto all'operaio specifico. Ecco, ma in questo centro, che, come si chiama questo centro a Pordenone? L'Inexperience Factory, l'EFA. Ecco, ma chi è che può rivolgersi lì per imparare la Lean e poi anche queste tecnologie? Solo le aziende di Pordenone o del Veneto? No, è un centro in realtà di grandissima rilevanza dove ci sono anche aziende internazionali che vi vengono, dalla Germania, da altri paesi. Quindi qualunque azienda può andare lì. Assolutamente. Ecco, sì. Ma c'è anche una fabbrica finta, no? Una fabbrica che produce lavatrici, se ho capito bene. Più o meno, frigoriferi. Ah, frigoriferi. Sì, quindi si producono frigoriferi solo per insegnare queste tecnologie a chi va lì? Si producono frigoriferi per insegnare tutto un insieme di tecnologie a chi va lì, esatto, che vanno dal trasformare il modo in cui viene venduto il prodotto, quindi rendere intelligente il prodotto, in questo caso il frigorifero, in modo che interagisca con chi l'ha venduto. Ecco, con ma chi poi prodotto, questi frigoriferi dove vanno a finire? Ma in questo caso i frigoriferi ne avremo anche uno a Milano, qua nel Microsoft Technology Center, saranno usati in alcuni centri, sempre in ottica formativa. È chiaro, ecco, che ecco la... è una tecnologia che si può portare da tutti i clienti, come ha fatto Salvagnini, ripeto, Famiglia. Certamente, la devo interrompere un attimo perché il tempo è tiranno e dobbiamo tornare dal professor Taish, anche perché volevo chiedere a lui, che ha una visione più da tecnologo, ma secondo lei è vero che grazie al cloud anche le piccole imprese possono trovare più facilmente una via all'Industry 4.0? Sì, direi che il cloud è fondamentale perché fa parte di queste tecnologie che consentiranno questa trasformazione digitale dell'impresa. Chiaramente non è solo il cloud è un abilitatore di dati, è un abilitatore di trasformazione di informazioni e di storage di informazioni. Non dimentichiamoci che, e forse questo, su questo dobbiamo veramente convincere i nostri imprenditori e convincere e spiegare ai nostri decision maker nelle imprese, sempre di più fare produzione, disegnare prodotti, produrre prodotti richiederà l'atomo, il metallo, perché ovviamente i prodotti continueranno a essere fatti di materiali fisici, di atomi, ma questi prodotti diventeranno intelligenti, quindi avranno a bordo evidentemente intelligenza, quindi avranno a bordo i bit. Allora il dato diventa la materia prima del futuro insieme al materiale fisico. Ecco che il dato deve stare da qualche parte evidentemente, quindi deve essere accessibile da tutte le parti, deve essere accessibile da qualunque prodotto in qualunque parte del mondo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ecco che quindi il cloud diventa la tecnologia abilitante di questa trasformazione digitale, dei prodotti verso prodotti intelligenti. Ecco, ma oltre alle piccole imprese, adesso lasciamo da parte un po' il cloud, ma oltre alle piccole imprese ci sono in Italia anche molte microimprese, ci sono imprese di 10 dipendenti, imprese che fanno 500.000 euro, 200.000 euro. Ecco, tutta questa rivoluzione dell'Industria 4.0, in che modo tocca anche quei piccoli, secondo lei? Quei microimprese sono fornitori di piccole imprese che a loro volta sono fornitrici di grandi imprese, è chiaro che voglio dire a partire dalla grande impresa e risalendo tutta la filiera io arrivo necessariamente al coinvolgimento della microimpresa. Ecco, dobbiamo chiudere perché il tempo è tiranno, però gli ascoltatori non si illudano che la finiamo qui. Perché noi domani alle 13.10 continueremo a parlare col professor Taish di questo miglioramento della situazione industriale che stiamo vedendo in Italia e anche di come deve essere questa via italiana all'Industry 4.0. Intanto diteci la vostra opinione sull'Industry 4.0, cosa ne pensate veramente, anche in modo cattivo e critico, a fabbrica@radio24.it. Saluto il professor Taish che ritroviamo domani. Arrivederci professore. Arrivederci. E saluto Fabio Moioli e lo ringrazio. Arrivederci. Grazie mille, arrivederci.